Capitolo 47. Accadde che fosse un sabato sera quando Will Ladislav ebbe quella piccola discussione con Lydgate. Le conseguenze di essa, quando fu tornato nelle sue stanze, furono di farlo stare alzato a metà della notte a ripensare, sotto il pungolo di una nuova irritazione, tutto ciò che aveva pensato in precedenza sul fatto di essersi stabilito a Middlemarch e di essersi legato a Mr. Brooke. Le esitazioni avute prima di fare quel passo si erano trasformate da allora in una suscettibilità ad ogni accenno che avrebbe fatto meglio a non compierlo. E da ciò derivava il suo accalorarsi con Lydgate, un accalorarsi che gli dava ancora agitazione. Non si stava rendendo ridicolo, e in un momento in cui era più che mai consapevole di non essere per nulla ridicolo, e a quale scopo? Beh, per nessuno scopo preciso. È vero. Aveva visioni sognanti di vaghe possibilità. Non esiste essere umano provvisto sia di passioni che di pensieri che non pensi in armonia con le proprie passioni, che non trovi immagini sorte nella mente che gli leniscono la passione con la speranza e lo feriscano con il timore. Ma questo, che accade a tutti noi, in alcuni avviene con una notevole differenza. E Will non era una di quelle persone la cui intelligenza segue la via maestra. Aveva le sue vie secondarie, dove c'erano piccole gioie di sua preferenza, quali dei gentiluomini passando al piccolo galoppo per la strada maestra avrebbero potuto considerare piuttosto stupide. Il modo in cui si creava una sorta di felicità dal suo sentimento per Dorotea ne era un esempio. Può sembrare strano, ma è un fatto che la speranza ordinaria e volgare di cui Mr. Casable lo sospettava, vale a dire che Dorotea potesse restare vedova e che l'interesse che egli aveva suscitato nella mente di lei potesse indurla ad accettarlo come marito, non aveva una forza tentatrice e avvincente su di lui. Egli non viveva nella prospettiva di un simile avvenimento e non la seguiva, come facciamo tutti con quell'immaginato altrimenti che è il nostro paradiso pratico. Non solo egli non era disposto a intrattenere pensieri che potevano essere bollati di bassezza morale e si sentiva già a disagio per il senso di doversi giustificare dall'accusa di ingratitudine, ma la consapevolezza latente di molte altre barriere fra lui e Dorotea, oltre all'esistenza del marito, aveva contribuito a distogliergli l'immaginazione da congetture su ciò che sarebbe potuto accadere a Mr. Casable. Vi erano ancora altri motivi. Will, lo sappiamo, non poteva sopportare l'idea di una qualsiasi imperfezione nel suo cristallo. Era un tempo esasperato e incantato dalla tranquilla libertà con cui Dorotea lo guardava e gli parlava, e vi era qualcosa di così squisito nel pensare a lei esattamente com'era, che egli non poteva anelare a un cambiamento che in qualche modo la trasformasse. Non evitiamo forse la versione data per strada di una raffinata melodia? O rifuggiamo dalla notizia che l'oggetto raro, forse una qualche opera di cesello e di incisione, su cui ci siamo soffermati addirittura con esultanza per gli affanni che ci ha costato vederla di sfuggita, in realtà non è una cosa rara e si può ottenere come possesso quotidiano. Il nostro bene dipende dalla qualità e dall'ampiezza delle nostre emozioni. E per Will, una creatura che si curava ben poco di quelle che sono chiamate le cose solide della vita, e assai dei suoi influssi più impalpabili, nutrire dentro di sé un sentimento quale lui nutriva per Dorotea era come aver ereditato una fortuna. Ciò che altri avrebbero potuto chiamare la inutilità della sua passione costituiva una delizia in più per la sua immaginazione. Era consapevole di un moto generoso e di verificare nella propria esperienza quella superiore poesia amorosa che gli aveva affascinato l'infanzia. Dorotea, si diceva, era per sempre assisa in trono nella sua anima. Nessun'altra donna poteva sedere più in alto del suo piedistallo. E se egli avesse potuto descrivere in sillabe immortali l'effetto che essa provocava in lui, avrebbe potuto vantarsi sull'esempio del vecchio Drayton, che future regine potrebbero essere liete di vivere sull'elemosina delle sue eccedenti lodi. Ma questo risultato era discutibile. E cos'altro poteva fare per Dorotea? Quanto valeva la sua devozione agli occhi di lei? Era impossibile dirlo. Non si sarebbe allontanato da lei. Non vedeva nessuno fra i parenti di lei a cui potesse credere che lei parlasse con la stessa semplice confidenza con cui parlava lui. Una volta le aveva detto che avrebbe gradito che rimanesse ed egli sarebbe rimasto, quali che fossero i draghi alle tante fiamme che le sibilavano attorno. Questa era sempre stata la conclusione delle esitazioni di Will, ma vi erano momenti in cui si contraddiceva e si ribellava persino alla propria decisione. Si era spesso irritato, come quella sera particolare, se qualche strano gli aveva dimostrato che le sue fatiche politiche assieme a Brooke come guida non potevano sembrare eroiche come avrebbe gradito. E a ciò si associava sempre l'altro motivo di irritazione, che nonostante il sacrificio della propria dignità per amore di Dorotea, non riusciva a vederla quasi mai. Al che, non riuscendo a smentire questi fatti spiacevoli, smentiva la propria inclinazione più forte e diceva: «Sono uno stupido!». Non di meno, dato che il contrasto interiore era necessariamente imperniato su Dorotea, egli finì, come aveva fatto in precedenza, solo per provare un senso più vivo di ciò che la sua presenza avrebbe significato per lui. E riflettendo subitamente che il giorno successivo sarebbe stata domenica, decise di andare alla chiesa di Lowick e vederla. Dormì con quell'idea in capo, ma mentre si stava vestendo nella razionale luce del mattino, l'obiezione disse: «Questa sarà una virtuale sfida alla proibizione di Mr. Casabo di visitare Lowick, e Dorotea ne sarà dispiaciuta». «Stupidaggini!» ribatté inclinazione. «Sarebbe troppo mostruoso da parte sua impedirmi di andare a una bella chiesa di campagna una mattina di primavera. E Dorotea ne sarà lieta. Mister Casabo capirà benissimo che sei andato o per irritarlo o per vedere Dorotea». «Non è vero che io vado per irritarlo, e perché non dovrei andare a vedere Dorotea? Deve avere tutto per lui e starsene sempre tranquillo? Soffra un po' come altri sono obbligati a fare. Mi è sempre piaciuto il lato pittoresco della Chiesa dei Fedeli, inoltre conosco i Tucker. Andrò nel loro banco». Avendo ridotto al silenzio obiezione con la forza dell'irragionevolezza, Will si recò a piedi fino a Lowick, come se fosse stato diretto in paradiso, attraversando il prato di Halsell e costeggiando i boschi dove la luce del sole cadeva piena sotto i rami in fiore, mettendo in evidenza le bellezze del muschio e del lichene e fresche piante verdi che si facevano strada fra le marroni. Tutto sembrava sapere che era domenica, e a provare che egli si recasse alla chiesa di Lowick. Will si sentiva facilmente felice quando nulla lo metteva di malumore, e ormai il pensiero di irritare Mr. Casabo era giunto a farlo quasi divertire, facendogli aprire il volto in un gaio sorriso, piacevole a vedersi come il sole che si fa largo sull'acqua, sebbene l'occasione non fosse esemplare. Ma per la maggior parte siamo inclini a decidere nella nostra coscienza che colui che ci sbarra la strada è odioso, e a non far caso se suscitiamo in lui un po' del disgusto che la sua personalità suscita in noi stessi. Will procedette con un libretto sotto il braccio e una mano in ciascuna tasca della giacca, senza leggere, ma salmodiando un po' mentre si immaginava le scene che avrebbero avuto luogo in chiesa e fuori. Stava provando delle melodie che si adattassero a delle parole da lui composte, a volte ricorrendo a una melodia nota, a volte improvvisando. Le parole non erano esattamente un inno, ma certamente si confacevano alla sua esperienza domenicale. «Oimè, oimè, di che cibo frugale il mio amore si nutre? Un tocco, un raggio che non è qui, un'ombra che è svanita, un sogno di un alito che potrebbe essere vicino, un tone echeggiato internamente, il pensiero che mi possa giudicare caro il luogo dove fu conosciuta, il tremito di un timore bandito, un male che non fu fatto. Oimè, oimè, di che cibo frugale il mio amore si nutre?». Talvolta, quando si toglieva il cappello, scuotendo la testa all'indietro e mostrando la gola delicata mentre cantava, sembrava come un'incarnazione della primavera, il cui spirito riempiva l'aria, una creatura luminosa, ricca di incerte promesse. Le campane stavano ancora suonando quando giunse a Lowick e andò nel banco del curato prima che qualsiasi altro vi arrivasse. Ma vi rimase solo anche quando i fedeli si furono raccolti. Il banco del curato era di fronte a quello del pastore, all'entrata del piccolo coro, e Will ebbe il tempo di essere assalito dal timore che Dorotea non venisse, mentre egli girava gli occhi sul gruppo di volti campagnoli che di anno in anno costituivano i fedeli entro i muri imbiancati e i vecchi banchi scuri, con mutamenti per nulla diversi da quelli che vediamo nei rami di un albero che si spezza qua e là per gli anni. Eppure ancora giovani germogli. Il volto da rana di Mr. Rigg era qualcosa di estraneo e inspiegabile, ma nonostante questo colpo all'ordine delle cose, c'erano ancora i Whale e la famiglia campagnola dei Powderell nei loro banchi fianco a fianco. La guancia di fratello Samuel aveva lo stesso cerchio rotondo di sempre e le tre generazioni di educati contadini venivano come a un tempo con un senso di dovere verso i loro superiori in generale. I bambini più piccoli consideravano Mr. Casabo, che indossava l'abito nero ed era salito sul banco più alto, probabilmente come il capo di tutti i loro superiori, il più terribile, si è offeso. Ancora nel 1831 Lowick era in pace e la riforma non l'agitava più del solenne tenore del sermone domenicale. I fedeli erano abituati a vedere Willie in chiesa in altri tempi e nessuno gli fece molto caso tranne il coro, che si aspettava che facesse una bella figura a cantare. Finalmente, in questo pittoresco sfondo, comparve Dorotea, percorrendo la breve navata col suo cappello bianco di castoro e il mantello grigio, gli stessi che indossava al Vaticano. Siccome da quando era entrata rivolgeva il volto verso il coro, anche i suoi occhi miopi distinsero Will, ma non mostrò alcun segno esteriore dei propri sentimenti, tranne un lieve pallore e un grave inchino quando gli passò davanti. Con sua grande sorpresa, Will si sentì improvvisamente a disagio e non osò guardarla dopo essersi fatti a vicenda un inchino. 2 minuti dopo, quando Mr. Casabo uscì dalla sagrestia e entrato nel banco si sedette di fronte a Dorotea, lui avvertì la propria paralisi in modo più completo. Non riusciva a guardare da nessuna parte tranne che verso il coro della piccola galleria sopra la porta della sagrestia. Dorotea forse era addolorata e lui aveva commesso un disgraziato errore. Non era più divertente irritare Mr. Casabo, che aveva probabilmente il vantaggio di osservarlo e di vedere che non osava voltare il capo. Perché non si era immaginato questo in precedenza? Ma non poteva aspettarsi di dover sedere in quel banco quadrato da solo, non assistito da nessun Tucker, che evidentemente era partito definitivamente da Lowick, perché un nuovo prete era legio. Si diede ancora dello stupido per non aver previsto che gli sarebbe stato impossibile guardare alla volta di Dorotea, anzi, che lei avrebbe potuto considerare la sua venuta un'impertinenza. Comunque non c'era modo di uscire da questa gabbia e Will trovò i suoi brani e guardò il libro come se fosse stata una maestrina, con la sensazione che la messa del mattino non fosse mai stata così infinitamente lunga, e sentendosi completamente ridicolo, di malumore e triste. Questo era ciò che si otteneva a idolatrare la vista di una donna. Il sagrestano notò con sorpresa che Mr. Ladislav non si univa all'inno di Hannover e rifletté che forse aveva un raffreddore. Mr. Casabo quel mattino non pronunciò il sermone. E la situazione di Will non cambiò finché non venne data la benedizione e ognuno si alzò. A Lowick era costume che i padroni uscissero per primi. Improvvisamente deciso a rompere quel sortilegio che lo aveva incatenato, Will guardò fisso Mr. Casabo. Ma lo sguardo di quel signore era posato sul pulsante del cancellino del banco, che aprì, lasciando passare Dorotea e seguendola subito senza sollevare le palpebre. Lo sguardo di Will aveva colto quello di Dorotea mentre questa usciva dal banco e di nuovo le fece un inchino, ma questa volta con un aspetto agitato, come se stesse soffocando le lacrime. Will uscì dietro di loro, ma questi si incamminarono verso il cancellino che immetteva dal cimitero nel folto di arbusti senza mai girarsi. Gli fu impossibile seguirli e poté solo tornare tristemente indietro a mezzogiorno, rifacendo la stessa strada che aveva percorso pieno di speranza al mattino. Per lui le luci erano tutte mutate, sia dentro di sé che fuori. Capitolo 48. L'afflizione di Dorotea nel momento di lasciare la chiesa proveniva soprattutto dalla constatazione che Mr. Casabo era deciso a non parlare al cugino e che la presenza di Will in chiesa era servita a dimostrare con maggiore evidenza il loro estraniamento. La venuta di Will sembrava del tutto apprezzabile, anzi pensava che fosse una mossa amichevole da parte di lui per una riconciliazione che lei stessa aveva costantemente desiderato. Egli aveva probabilmente immaginato, al pari di lei, che se Mr. Casabo e lui si fossero potuti incontrare con naturalezza, si sarebbero dati la mano e avrebbero potuto rinnovare i loro rapporti amichevoli. Ma ora Dorotea si sentì completamente defraudata di quella speranza. Will era bandito in misura ancora maggiore perché Mr. Casabo doveva essere stato nuovamente inasprito da questa imposizione di una presenza che si rifiutava di riconoscere. Quel mattino non era stato molto bene per qualche difficoltà di respirazione e di conseguenza non aveva predicato. Lei non fu quindi sorpresa che rimanesse quasi muta a pranzo e ancor meno che non facesse alcuna allusione a Will Ladislaw. Quanto a lei, sentiva di non poter più fare accenno a quell'argomento. Di solito la domenica trascorrevano separate le ore fra il pranzo e la cena, Mr. Casaubon in biblioteca per lo più a dormire e Dorothea nel suo boudoir, dove era solita trascorrere il tempo con alcuni dei suoi libri preferiti. Sul tavolo del bovindo ce n'era una modesta pila di vari generi, da Erodoto, che stava imparando a leggere assieme a Mr. Casaubon, al suo vecchio compagno Pascal e l'Anno Cristiano di Keble. Ma quel giorno ne aprì uno dopo l'altro e non riuscì a leggerne nessuno. Tutto le sembrava triste: i portenti prima della nascita di Ciro, le antichità ebraiche, oddio, epigrammi di argomento religioso, il suono sacro degli inni preferiti. Erano tutti quanti piatti, come melodie battute su un legno. Persino i fiori e l'erba primaverile rabbrividivano smorti sotto le nubi pomeridiane che coprivano il sole a tratti. Persino i pensieri incoraggianti, che le erano divenuti abitudinari, sembravano carichi della stanchezza di lunghi giorni futuri in cui avrebbe vissuto con loro come unici compagni. Era un genere di compagnia diverso, o meglio, più pieno, quello che Dorotea bramava. E la brama era venuta dallo sforzo continuo e richiesto della sua vita di sposa. Cercava sempre di essere ciò che il marito desiderava e non riusciva mai a piacergli per ciò che era. La cosa che gradiva, ciò che spontaneamente le piaceva avere, sembrava per sempre escluso dalla sua vita, perché se l'era solo concesso e non condiviso dal marito, tanto valeva che le fosse negato. Su Ladislav c'era stato un disaccordo tra di loro fin dall'inizio. E questo era terminato dal momento che Mr. Casaubon aveva così severamente respinto l'opinione intransigente di Dorothea sui diritti del giovane alla proprietà di famiglia. Quando lei era giunta a concludere che la ragione era dalla propria parte e il torto da quella del marito, che lei non poteva farci niente. Quel pomeriggio il senso di impotenza la stordiva miseramente più che mai. Bramava oggetti che le potessero essere cari, a cui potesse essere cara. Bramava un lavoro che fosse immediatamente benefico, come la luce del sole e la pioggia. Ed ora pareva che dovesse vivere sempre di più in una sorta di tomba, dove l'attrezzatura di un lavoro spettrale produceva ciò che non avrebbe mai visto la luce. Quel giorno si era affacciata sulla porta della tomba e aveva visto Bill Ladislav inoltrarsi nel mondo remoto di un'attività e una fratellanza calorose, volgendo la faccia verso di lei nell'andarsene. I libri non servivano, pensare non serviva. Era domenica e lei non poteva avere la carrozza per andare da Celia, che di recente aveva avuto un bambino. Ora non vi era nulla che la riparasse dal vuoto e dal malessere spirituali e Dorothea doveva sopportare il proprio malumore come avrebbe sopportato un mal di capo. Dopo cena, all'ora in cui di solito cominciava a leggere ad alta voce, Mr. Casaubon suggerì di andare nella biblioteca dove egli disse aveva preparato un fuoco e le candele. Sembrava si fosse rianimato e che pensasse intensamente. Nella biblioteca Dorothea osservò che aveva disposto in modo nuovo una pila dei suoi quaderni di appunti su un tavolo e a questo punto raccolse e le mise in mano un volume ben noto, che era l'indice di tutti gli altri. Mi farete un favore, mia cara, gli disse sedendosi, se invece di altre letture, questa sera esaminerete questo ad alta voce, matita in mano, e ogni volta che vi dirò segnate, farete una crocetta con la matita. Questo è il primo passo di un processo di cernita a cui da tempo pensavo, e mentre procederemo potrò indicarvi certi principi di selezione grazie ai quali potrete, spero, partecipare in modo intelligente al mio scopo. Questa proposta era solo un altro segno in aggiunta a molti altri, dal tempo del suo memorabile colloquio con Lydgate, che l'originale riluttanza di Mr. Casaubon a far lavorare Dorothea con sé aveva ceduto il posto a una tendenza contraria, vale a dire a chiederle molto interessamento e lavoro. Dopo che lei ebbe letto e segnato per 2 ore, egli disse: Ci porteremo il volume di sopra e la matita, per favore, e in caso vogliamo leggere di notte, possiamo continuare questo lavoro. Spero che questo non vi affatichi, Dorothea. Preferisco sempre leggere quello che vi piace, di più ascoltare, disse Dorothea, che diceva la semplice verità, perché ciò che temeva era di affaticarsi a leggere o fare qualsiasi altra cosa che lo lasciasse triste come sempre. Era prova della forza con cui certi tratti del carattere di Dorotea lasciavano un segno su coloro che la circondavano. Il fatto che il marito, nonostante tutta la sua gelosia e i suoi sospetti, fosse giunto implicitamente a fidarsi dell'integrità delle sue promesse e della sua forza di dedicarsi a ciò che considerava giusto e ottimo. Ultimamente egli aveva cominciato a rendersi conto che queste qualità erano un particolare vantaggio per sé e voleva monopolizzarle. Il momento della lettura durante la notte infatti arrivò. Dorotea, con la sua giovane sposatezza, era caduta ben presto in un sonno profondo. Fu destata dalla sensazione di una luce che dapprima le parve come l'improvvisa visione di un tramonto dopo averlo scalato una collina ripida. Aprì gli occhi e vide il marito, avvolto nella sua veste calda, seduto nella poltrona presso il focolare dove i tizzoni fiammeggiavano ancora. Aveva acceso due candele in attesa che Dorotea si destasse, ma non volendo destarla in modo più diretto. «Vi sentite male, Edward?» chiese alzandosi immediatamente. «Mi sentivo un po' a disagio in posizione reclina. Siederò qui per un certo tempo.» Lei gettò della legna nel fuoco, si coprì e disse: «Avreste piacere che vi leggessi?» «Mi rendereste un gran favore, Dorotea», disse Mister Casabo, con una punta di maggiore dolcezza del solito nel suo modo di fare educato. «Non riesco a dormire. Ho la mente eccezionalmente lucida.» «Temo che l'eccitazione sia troppo grande per voi», disse Dorotea, memore degli ammonimenti di Lydgate. «No, non mi sento molto eccitato. Il pensiero è rilassato.» Dorotea non osò insistere. Per un'ora o più lesse, seguendo le stesse indicazioni della sera, ma terminando le pagine con maggiore rapidità. La mente di Mister Casabo era più pronta e sembrava prevedere il seguito dopo una tenuissima indicazione verbale, dicendo: «Quello va bene, segnatelo, oppure passate al capo successivo, tralascio la seconda digressione su Creta.» Dorotea era stupefatta nel pensare all'alata velocità con cui la sua mente valutava il treno su cui aveva strisciato per anni. Infine gli disse: «Adesso chiudete il libro, cara, riprenderemo il lavoro domani. L'ho rimandato per troppo tempo e sarei felice di vederlo terminato. Ma osserverete che il principio in base al quale è compiuta la mia selezione consiste nel dare un'illustrazione adeguata e non sproporzionata di ciascuna delle tesi enumerate nella mia introduzione, che al momento è stata solo delineata.» «Vi siete resa distintamente conto di ciò, Dorotea?» «Sì», disse Dorotea in tono alquanto tremulo. Si sentiva triste fino nel più profondo del cuore. «E adesso penso di potermi riposare un po'», disse Mister Casabo. Si mise a letto di nuovo e le chiese di spegnere le candele. Quando anche lei si fu messa a letto e tutto fu piombato in un'oscurità rotta solo da un fioco bagliore nel caminetto, gli disse: «Prima che mi addormenti, ho una richiesta da farvi, Dorotea.» «Di cosa si tratta?» chiese Dorotea, assalita da un timore. «Che mi facciate sapere, ponderatamente, se nel caso io morissi, vi atterrete ai miei desideri, se eviterete di fare ciò che io disapproverei e vi dedicherete a fare ciò che desidererei.» Dorotea non fu colta di sorpresa. Molti indizi l'avevano indotta a supporre che il marito nutrisse una qualche intenzione che avrebbe potuto costruire un nuovo giogo per lei. Non rispose subito. «Vi rifiutate?» chiese Mister Casabo con tono più incisivo. «No, non mi rifiuto ancora», disse Dorotea con voce chiara e il bisogno della libertà che si riaffermava entro di lei. «Ma è troppo solenne. Penso che non sia giusto fare una promessa quando ignoro ciò a cui mi vincolerà. Qualsiasi cosa mi suggerisce l'affetto, lo farei senza prometterlo. Ma voi vorreste usare il vostro giudizio? Vi chiedo di ubbidire al mio, ma vi rifiutate?» «No, caro, no», disse Dorotea in tono implorante, sopraffatta da opposti timori. «Ma posso aspettare e riflettere un po'? Desidero con tutta l'anima fare ciò che vi sia di conforto, ma non posso impegnarmi all'improvviso, ancor meno impegnarmi di fare non so cosa.» «Allora, come potete avere fiducia nella natura dei miei desideri?» «Concedetemi di riflettere fino a domani», disse Dorotea in tono implorante. «Allora, fino a domani», disse Mister Casabo.